Bologna e dintorni. Come va il mondo? Sabato 25 gennaio, puntata numero 16 per Bologna e dintorni. Io sono Alessandro Albana e oggi, alla fine della settimana che ha visto inaugurarsi la presidenza di Donald Trump, che si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca lunedì 20 gennaio, parleremo proprio di cosa potrà succedere alla politica statunitense e a quello che attiene alle relazioni tra gli Stati Uniti e il mondo, proprio alla luce di quanto è accaduto durante l'inaugurazione in questi pochi giorni, che pure sono stati abbastanza densi e pieni di eventi piuttosto significativi. Partendo dalla cerimonia inaugurale, hanno fatto scalpore tanto la presenza di tycoon e miliardari e di rappresentanti, amministratori delegati e vertici delle big tech statunitensi, evidentemente nel tentativo di stringere una qualche relazione, una qualche sintonia con la nuova amministrazione repubblicana statunitense, e forse ancora di più il saluto romano di Elon Musk, che già fa parte della squadra di governo di Donald Trump. Proprio Donald Trump lo ha nominato a capo di un organismo che è incaricato di razionalizzare la spesa pubblica e semplificare la macchina burocratica statunitense. Oltre e dopo l'inaugurazione, ancora più significativi e importanti sono stati gli avvenimenti e anche le mosse politiche di Donald Trump, a cominciare dalla grazia che è stata concessa a più di 1500, quasi 1600 degli assalitori di Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. Da Davos, dove era in collegamento per il World Economic Forum, Trump ha in questi giorni anche annunciato, ma questo era già nell'aria, dazi nei confronti dell'Europa. Trump non ha fatto mistero di essere insoddisfatto e anche dispiaciuto delle relazioni della bilancia commerciale statunitense per quanto riguarda le relazioni commerciali con l'Europa, e sempre dal World Economic Forum Trump ha annunciato, o ha ribadito se vogliamo, un suo mantra che già conoscevamo, ovvero la richiesta di aumentare il contributo al 5% del PIL, dall'attuale 2% circa, per l'alleanza atlantica, quindi per la NATO, da parte dei paesi membri. Sempre in tema di politica internazionale, l'insediamento della presidenza di Donald Trump sembra aprire degli spiragli per un dialogo con la Russia. Anche questa non è una novità, però proprio in questi giorni il leader russo Vladimir Putin si è detto pronto a parlare con l'amministrazione statunitense, quindi con Donald Trump, mentre il presidente statunitense ha detto di Zelensky, del leader ucraino, che non è un angelo. Ma l'aspetto su cui Trump in questi giorni si è espresso e ha dato il via a politiche più radicali, più significative e in grado di scompaginare il quadro esistente è quello dell'immigrazione negli Stati Uniti. Trump a questo proposito ha detto che inizia una nuova età dell'oro per il paese, e questa età dell'oro, ci viene da dire, che si giocherà sulla pelle delle migranti e dei migranti non soltanto in arrivo negli Stati Uniti, ma che già vivono nel paese. Per cercare di orientarci in questo quadro frastagliato, vi chiedo di attendere qualche minuto e di risentirci dopo una breve pausa musicale. A tra pochissimo. Yours, but I'm not. Questi erano gli Arcade Fire con Ready to Start. Bentornate e bentornati. Dunque, all'inizio di questa settimana, ovviamente, e lo sapete, si è insediato per la seconda volta Donald Trump come capo dell'amministrazione statunitense, con una cerimonia che potremmo definire col botto per l'insediamento alla Casa Bianca. E oggi, per discutere di cosa è successo durante la cerimonia di inaugurazione e che cosa lascia presagire l'insediamento di Donald Trump già nei primi giorni della sua 47esima presidenza, siamo in collegamento con Matteo Battistini, docente di storia e istituzioni degli Stati Uniti all'Università di Bologna. Buongiorno Matteo. Buongiorno, ciao Alessandro. Dunque, io intanto ti ringrazio per aver accettato il nostro invito e partirei proprio dalla cerimonia inaugurale del 20 gennaio, perché il secondo mandato di Donald Trump si è aperto tra episodi controversi che hanno caratterizzato proprio l'evento dell'inaugurazione, a cominciare dal celebre, nefasto direi, saluto romano di Elon Musk. Elon Musk, lo sappiamo, fa parte della squadra di governo di Trump, già prima dell'insediamento, infatti. È stato nominato al vertice del Department of Government Efficiency, che sostanzialmente ha il compito di diminuire la spesa pubblica e semplificare la burocrazia negli Stati Uniti. Si tratta di un organismo di recente istituzione. Oltre a Elon Musk, che fa parte del governo, alla cerimonia erano presenti tra gli altri il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il capo di Meta Mark Zuckerberg, Tim Cook di Apple e altri. A questo proposito, su VD News, Davide Triglia ha scritto, riporto letteralmente, il saluto fascista, come la presenza di Musk a fianco di Trump, preannuncia una nuova era politica dominata da miliardari con deliri di onnipotenza e fortissimi interessi personali, e solleva inquietanti interrogativi sul futuro della democrazia americana, che appare essere sempre più nelle mani di una ristretta elite di oligarchi ultraricchi. Se queste costituiscono le premesse della seconda era Trump, Matteo, che cosa è realistico aspettarsi nei prossimi 4 anni dalla Casa Bianca? Dunque, io direi che è vero che assistiamo a un chiaro allineamento delle grandi corporation tecnologiche, le big tech, in favore dell'amministrazione Trump. Questo è un dato rilevante, certamente prevedibile per come è andata la campagna elettorale, ma che segna comunque uno scarto rispetto al modo in cui il capitalismo americano si è rapportato negli ultimi 10-20 anni al sistema politico americano. Questo direi che mi porta a due considerazioni distinte ma connesse. Per un verso, credo che segnali la crisi del Partito Democratico e del mondo liberale in generale, che nonostante qualche segnale di ripensamento, specie all'inizio della presidenza Biden, di fatto non ha saputo, non è riuscito a uscire, a inventare un modo e una politica all'altezza della tensione tra il grande capitale e il conflitto sociale. Mi riferisco in particolare al rifiuto delle condizioni di sfruttamento che dopo il Covid hanno contraddistinto certi comportamenti più o meno organizzati del lavoro di donne, uomini, bianchi, neri e ispanici. Il risultato mi pare chiaro ed è la foto della cerimonia che rappresenta in maniera plastica uno spostamento a destra del grande capitale. Più importante ancora, e forse anche più drammatico, mi pare essere la debolezza numerica e politica delle manifestazioni che hanno preceduto questo insediamento, che segnalano di fatto il fallimento del Partito Democratico sul terreno del lavoro. Le manifestazioni che ci sono state sabato e domenica scorsa sono state decisamente sottotono, se confrontate con quelle del gennaio 2017, durante il primo insediamento di Trump. Qualche esempio, appunto una settimana fa a Washington, Women's March, People's March, c'erano 35-40 mila persone, nel 2017 erano 500 mila. È un dato che non viene bilanciato dal fatto che si sono avute iniziative in circa 300 città, perché in tutte queste la partecipazione è stata decisamente sotto le aspettative e la composizione era in gran parte bianca, e soprattutto al centro della protesta c'erano i diritti riproduttivi, la difesa della democrazia e della Costituzione. Quindi, come dire, gli stessi argomenti centrali della campagna elettorale democratica, che però non sono riusciti evidentemente a mobilitare in massa. Per l'altro verso, come mi pare segnali anche l'intervista di qualche tempo fa, di qualche settimana fa, di Steve Bannon, credo che questo non ci debba condurre a pensare che l'assetto politico della nuova amministrazione, le sue strette connessioni con ampi settori del capitalismo, anche quello tradizionale estrattivo, ma soprattutto la coalizione sociale di questa amministrazione, in gran parte bianca, anche se con elementi non trascurabili di voto ispanico e nero, ecco, non credo che questo assetto politico ed elettorale sia così stabile. Intendo dire che è possibile e anche augurabile che emergano tensioni e contraddizioni che, a mio parere, derivano dal disordine trasnazionale nel quale gli Stati Uniti sono immersi, tanto dal punto di vista delle relazioni internazionali e della politica estera, quanto da quello prettamente economico, ovvero le reti globali di valorizzazione del lavoro. È certo che la possibile esplosione di queste tensioni e contraddizioni dipenderà molto dalla capacità di risposta di precari, migranti, donne, minoranze nelle loro lotte, nella produzione e riproduzione, dalla loro capacità, cioè anche di smuovere un sindacato che sembra anch'esso invischiato nelle contraddizioni che bloccano il Partito Democratico. Nei pochi giorni che sono trascorsi dall'insediamento, Trump sembra aver messo in chiaro quali saranno le politiche che gli Stati Uniti adotteranno, in particolare in tema di immigrazione. E contestualmente ha concesso la grazia a più di 1.500 dei partecipanti all'assalto di Capitol Hill del 6 gennaio del 2021. E dunque, partendo da questi due elementi, Matteo, quali saranno le sfide principali, dalla tua prospettiva, dal tuo punto di vista, in tema di politica interna e con quale approccio verranno affrontate dall'amministrazione di Donald Trump? Io, più che sulle sfide future, mi pare che il punto sia la fattibilità e le conseguenze di politiche che emergono già chiaramente, come era annunciato d'altra parte, fin dai primi ordini esecutivi. Mi riferisco in primo luogo alla dichiarazione di emergenza nazionale al confine con il Messico, all'annunciato addio allo Ius Soli, alla cittadinanza per chi nasce negli Stati Uniti. Trump ha cioè firmato un ordine esecutivo che nega la cittadinanza automatica ai figli di immigrati regolari nati sul suolo statunitense, che è un provvedimento che viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione, e quindi sarà subito oggetto di ricorsi legali. Trump poi ha anche promesso un piano di espulsione di massa nei confronti dei migranti illegali. Qui il punto non credo che sia soltanto il costo economico di simili operazioni, la loro fattibilità anche pratica, ma mi pare che la domanda che si ponga è se può l'economia americana fare a meno di una massa di forza lavoro essenziale su più livelli di lavoro non qualificato e qualificato. Bisognerebbe ritenere che chi ha in mano la cittadinanza sia disposto poi ad accettare condizioni estreme di lavoro e salariali per colmare la carenza di lavoro che si verrebbe a a creare. Se questo pare in verità, senza dubbio, essere il progetto della destra trampiana che inneggia al lavoro americano bianco, per dire la verità, non in maniera diversa da quello che succede in Europa e in Italia con le politiche migratorie, non mi pare d'altra parte immediato che ciò si realizzi, o comunque non senza conflitti che produrranno tensioni anche dentro la stessa base elettorale di Trump. E lo citavi prima, un ragionamento simile credo che si possa fare sulla questione dello Stato federale e della sua destrutturazione. Musk e il nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo rispondono certamente a uno storico progetto dell'estrema destra che è riapparso soprattutto nel Project 2025 e in altri documenti di gruppi più o meno legati a MAGA, ma qui io sarei piuttosto chiaro, non si tratta di smantellare lo Stato federale, che anzi sarà rafforzato sul piano degli apparati di difesa internazionale, sicurezza nazionale e sicurezza interna, si tratta invece, mi pare, del tentativo di farla finita dal punto di vista della destra, una volta per tutte, con i pur indeboliti sistemi di welfare, di prevenzione sociale, assicurazione sanitaria, di istruzione pubblica. Inoltre, tra gli ordini esecutivi ce n'è anche uno che cambia a questo proposito lo status dei dipendenti dello Stato federale, rendendoli più facilmente licenziabili. Qui il punto mi pare essere quale sarà la risposta del sindacato nel settore pubblico, evidentemente. Ma quale sarà anche la risposta delle fasce medio-basse della popolazione, anche bianca? Perché finché queste misure di smantellamento del welfare hanno riguardato e riguarderanno minoranze, è un conto, ma altro conto è quando toccheranno gruppi sociali bianchi che ancora, grazie a quelle misere misure sociali, fanno fronte, diciamo, alla loro riproduzione. Bisogna anche considerare che Trump aveva costruito la sua prima campagna elettorale contro Obamacare, quindi la legge sulla sanità di Obama, ma poi non sono stati capaci di liberarsene. Insomma, anche qui vedrei il quadro sociale e politico più in movimento di quello rappresentato dalla foto ufficiale di questo insediamento, per quanto lo scenario che abbiamo davanti sia drammatico, insomma. Qualche minuto ancora per un paio di domande. La prima che ti chiedo, facendo seguito a quella precedente sulla politica interna, riguarda le relazioni internazionali degli Stati Uniti. Le dichiarazioni di Trump hanno già creato scompiglio in maniera diffusa. Che cosa c'è da aspettarsi su questo fronte? Anche qui ci sono già alcuni ordini esecutivi, l'uscita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'uscita dall'accordo internazionale sul clima, annunciati dazi per Canada e Messico, oltre che per Cina e anche per Europa, l'insistenza di Trump affinché i governi europei si facciano carico di maggiori spese militari. Diciamo che questi sono gli obiettivi. Dentro un discorso politico, quello di Trump sulla grandezza dell'America, che tra l'altro ha riportato in auge alcune formule del passato imperiale americano, come il Destino Manifesto, siamo a metà 800 e quindi espansione della schiavitù e guerra contro il Messico, il riferimento al presidente che ha William McKinley alla fine dell'800 segnato l'ascesa imperiale degli Stati Uniti con l'annessione delle Filippine, il protettorato di Cuba, e Trump poi è tornato nuovamente sulla questione del canale di Panama, oltre che sulla Groenlandia. Io però eviterei di leggere tutto questo con il ritorno di politiche del passato, ovvero una politica imperiale. A me pare piuttosto che Trump dia voce ad una serie importante di interessi economici che nello scenario globale di guerra nel quale siamo immersi vedono perdere potere nel determinare a proprio vantaggio le catene globali del valore, dello sfruttamento rispetto alla Cina, ma qui tu Alessandro ne sai più di me, ma non solo. In questo senso mi pare che la sua politica estera sia una politica che possa essere iscritta in una guerra per il transnazionale, cioè per definire regimi di accumulazione favorevoli al grande capitale americano. Anche su questo possiamo attendere e auspicare tensioni e contraddizioni. Perché, come sappiamo, la stessa figura di Musk, proprietario della Tesla, con le fabbriche in Cina come in Europa, per cui evidentemente bisognerà vedere la misura di questa guerra commerciale. Bene, Matteo, alla luce del quadro, insomma, come sempre, un po' imperscrutabile a tinte fosche che si crea con gli ospiti e le ospiti di questa trasmissione, di fronte alla seconda tappa dell'era Trump, che cosa c'è da aspettarsi, viste le premesse? A che cosa siamo di fronte? A un fenomeno di demagogia e populismo o al sintomo più evidente di una frase di crescente autoritarismo dei governi anche democratici dalla prospettiva e nella prospettiva globale? Io non considero Trump un'eccezione americana, ovviamente, ma neanche il semplice segno dell'avanzata recente delle destre, piuttosto, mi sembra l'espressione globale di un'affermazione ormai compiuta delle destre a livello mondiale dentro un lungo processo storico che dagli anni 80 ha visto un progressivo svuotamento sociale della democrazia. E questo svuotamento mi pare che abbia ormai di fatto sincronizzato esperienze storiche molto diverse, quelle delle democrazie occidentali, evidentemente, con i paesi, gli stati nazione seguenti alla decolonizzazione e poi ovviamente anche gli stati che si sono formati con la caduta del regime sovietico. Cioè, mi pare di poter dire che il mondo non è mai stato così piccolo, soltanto che purtroppo lo è per via di contenuti sempre più autoritari che tengono insieme tanto i regimi autocratici quanto le democrazie. E quindi, per rispondere nello specifico alla tua domanda, penso che siamo decisamente oltre la demagogia e il populismo, ma siamo davanti a risposte globali che mirano in qualche modo a rafforzare, irrigidire fortemente la coazione al lavoro, lo sfruttamento e l'oppressione patriarcale e razziale. E Trump, mi pare essere espressione di tutto questo. E insomma, i tempi che ci attendono non saranno per nulla facili, ma ci toccherà stare a vedere e probabilmente anche vivere sulla nostra pelle gli effetti di questi processi. Matteo, io ti ringrazio molto per il tuo contributo e il tuo tempo, insomma, hanno sviscerato e indagato alcuni degli aspetti che più significativamente, insomma, ci interrogano sull'oggi e anche sul futuro. Grazie Matteo Battistini. Grazie, grazie Alessandro. Ciao a tutti. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 13:30 su Radio Città Fucico. Potete ascoltarci online oppure sul sito. A sabato prossimo, grazie a tutte e tutti. Fucile in mano, mercenario mai tagliato. ci sarà memoria. È solo un sogno, visti America Dream.